traito! Il mostro di questa guerra smetterà di infettarci. Se un giorno potremmo sentirci liberi e semplicemente amarci. Non ci sono scale, ma solo un lento perdersi tra le nuvole. Ora che l'aria tutta è ferma e l'anima distesa tra i selciati del sole arsi, sono gioie che non ho più provato. Rimane ora solo amore sognato. Nel mio cuore disincanto verranno poche cose facili, forse altri lavori umili prima del paradiso sognato. L'odio lascia questo dazio dannato all'amore come fato. Sono parole che non hanno fiato, senza tempo come la parola sempre, porte che solo l'amore apre. Che ho sentito nella vita raccontate solo da un bacio, la cui mancanza sulle labbra lascia uno straccio, e solo l'odio può salvare. Vero coraggio trovato dentro una pozza di sangue mio sputato d'un fiato, urlato contro il cielo stellato e di un tuono infuriato. Apritemi, urlavo, gridavo della speranza che avevo perduto. Siamo rockstar anonime, dannate, senza pubblico né platea, rockstar dell'arte, sognanti nel buio della luce di un paradiso artificiale di solitudine. Le nostre pagine, tagliate e bruciate, diverranno polvere di fate. Al mio funerale raccontate che ero come la vita stessa, un fiato e basta, paragonato all'immenso. Ed è così che piano piano, appassendo il sogno, sono scomparso. E dite a tutti che questo è il mondo dove il vero resta solo, steso sulla fine del fondo. We'll be right back.